Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Tracce di Cinema. Oggi è giovedì 19 maggio, il mio orologio va sempre più male. Sono le 15.02 e potete ascoltarci attraverso la radio o se avete un computer anche in streaming attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info. Un saluto in particolare va da questa voce a tutti coloro e a tutte coloro che in questo momento vivono private della loro libertà personale. Oggi è una puntata ricchissima di musica, di cose da dire, veramente tante, ce ne possiamo fare anche 20 di puntate con tutto quello che ho scritto. Ne stavamo parlando adesso con David, che dice che sono troppo logorroica nella scrittura, e in effetti è così. Beh, tantissime notizie, il cinema italiano, la musica italiana, tante cose da dire, un ospite che speciale, è già in linea, Domenico Di Todos, benvenuto, grazie di essere con noi. Peccato che non sei qua con noi però, Domenico, Ci sarà un'altra occasione. Comunque, buonasera intanto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. È passato mezzogiorno, quindi si può dire buonasera. Io sono abituato a dire buonasera. Tra l'altro non mancherà occasione, perché proprio nel titolo ho messo musica italiana da film 01, per cui immagino che, e spero che ci saranno altri momenti. Allora Domenico, so che hai avuto una conversazione prima con Ottavia rispetto alle scelte che abbiamo fatto, sulle proposte che ci hai mandato, un'ampia rosa da cui abbiamo selezionato alcune cose. Ottavia, sì. Tu puoi riferire meglio su quanto. Sì, abbiamo parlato, io ho elencato per 10 minuti titoli di brani e di film. A un certo punto Domenico timidamente mi ha detto: Ottavia, ma avremo tempo di metterli tutti? E in effetti non ci sarà tempo, quindi potremo fare magari un'altra puntata, se Domenico ci darai la tua disponibilità. Sarebbe bello, perché veramente la scelta che tu ci hai proposto, delle tracce che tu ci hai proposto, è veramente molto bella, e io sono affezionata a ognuna e a ogni film, cercando le notizie su internet, mettendo insieme la trasmissione, mi sono emozionata e ho sottolineato, per quanto mi riguarda, perché diciamo ho più cura diciamo riguardo le notizie cinematografiche, mi sono emozionata pensando agli addetti ai lavori, cioè gli sceneggiatori, i direttori della fotografia, perché questi film dai quali sono state tratte le tracce che tu hai scelto, Domenico, sono tutti film che hanno uno spessore molto profondo all'interno del panorama cinematografico italiano, e quindi sono fatti da degli artigiani, da dei grandi personaggi che fanno il cinema, e che non è sempre fatto soltanto da registi e dagli attori, ma anche dagli sceneggiatori, i direttori della fotografia, tutti i costumisti, tutti i tecnici, ecco. Quindi insomma grazie Domenico, e abbiamo fatto questa piccola scelta insieme, e speriamo che sia insomma degna, anzi l'ho fatta un po' io. Ci concentriamo un po' sulla prima parte delle tracce scelte, su cui Domenico è chiamato un po' ad esprimersi. Partiamo da De André. Davide, aiutami, perché io sono piena di pagine. A Ivano Fossati, poi De André, Domenico, e poi gli Avion Travel, Massimo Volume, i CSI, Marlene Kunz. Questo per la prima parte, La prima parte, vabbè, fino a Massimo Volume. Diciamo sì, allora, non so se hai compreso tutto. Quindi Ivano Fossati, Fabrizio De André, Avion Travel e Massimo Volume, credo che ci stiamo nella prima mezz'ora. Sì, penso di sì. Ok. Quindi autori super noti, proprio cantautori, insomma, importanti, e poi autori diciamo del panorama musicale italiano più contemporanei, no Domenico? Sì, alcuni proprio con colonne sonore vere e proprie, tipo quella per il Toro di Ivano Fossati, altri invece con brani sparsi scelti poi dal regista, come per esempio Le Passanti di De André, scelto per l'apertura del film L'amore ritrovato. Senti, per allora intanto come in base a quali idee e gusti hai tirato fuori questi nomi legati a questi film, Domenico? Ma film che mi hanno colpito sia a livello di cinematografico sia a livello di colonne sonore. Per esempio quella del Toro di Ivano Fossati, una colonna sonora che dimostra uno sforzo da parte del musicista di entrare nel film, un film che si sposta verso i Balcani, e la colonna sonora di Ivano Fossati presente all'interno degli strumenti tipici del folklore e della musica balcanica. Sì. Poi il pezzo che ascolteremo immagino sia invece Naviganti, che è l'unico pezzo, sì, in cui c'è anche un testo, c'è anche la voce di Ivano Fossati, ed è un po' diverso dal resto della colonna sonora, però insomma è poi la chiusura del film. Quando invece penso ai Massimo Volume, ecco, quello più che altro è un tributo a un gruppo che amo particolarmente, e quindi al di là dell'aspetto cinematografico proprio mi piacciono molto i Massimo Volume. Allora quando li ho visti inseriti in quel film mi è rimasto impresso e ho voluto poi indicarli anche per la puntata di oggi di Tracce di Cinema. Poi L'amore ritrovato, Fabrizio De André, e Volevamo essere gli U2, Avion Travel. L'amore ritrovato, Fabrizio De André, anche lì una scena d'apertura molto molto bella, Stefano Accorsi nel treno che passa di scompartimento in scompartimento. Il film è ambientato negli anni 30, se non ricordo male, e poi c'è lo scoppio della guerra, quindi si vede la parte finale invece post bellica. È molto molto bella canzone questa di Brassens, tradotta da Fabrizio De André, si inserisce perfettamente nello spirito del film e nel personaggio poi interpretato da Stefano Accorsi e da questa sua quasi maniacalità nei confronti delle donne, del cercare delle avventure nonostante poi avesse famiglia e figli a casa. E invece per quanto riguarda gli Avion Travel è un brano questo che non è semplicemente una colonna sonora. Gli Avion Travel compaiono proprio nel film, cantano all'interno del locale su una piccola pedanina mentre i ragazzi di Vogliamo essere gli U2 stanno tra il pubblico. All'epoca gli Avion Travel penso fossero non particolarmente conosciuti e mi colpì molto questo brano, Abbassando, un bel pezzo di un gruppo che io non conoscevo e ho conosciuto in seguito anche grazie a questo film. Senti, forse nella prima mezz'ora riusciamo anche a infilarci CSI con Tutti giù per terra, che è una traccia che a me è veramente piaciuta tanto, proprio nel panorama anche musicale dei CCP CSI successivi. Sono perfettamente d'accordo con te, e poi lì anche torniamo come in Volevamo essere gli U2, in un film nel quale i gruppi musicali fanno parte proprio della trama e dei personaggi del film. All'interno di Tutti giù per terra compaiono Just Mamò, compaiono Marlene Kunz proprio come attori all'interno del film, e poi invece Tutti giù per terra di CSI è i titoli di coda accompagna come scorrere. Anche secondo me questo è un brano bello, ecco, che si inserisce bene nella produzione dei CSI, non è solamente per il film. Allora partiamo con le musiche. Domenico, ci sentiamo verso la metà della trasmissione. Certamente. A dopo. Siamo stati naviganti con l'acqua alla gola, in tutto questo bello andare quello che ci consola è che siamo stati lontani e siamo stati anche bene e siamo stati vicini e siamo stati insieme. Siamo stati contadini noi due senza conoscere la terra, piccoli soldati senza amare la guerra, ci hanno mandati lontano senza spiegarci bene e siamo stati male, ma siamo ancora insieme. Grandi corridori di corse in salita che alzavano la testa dal manubrio per vedere se fosse finita. Allenati alla corsa, allenati alla gara e preparati a cadere e a tutto quello che si impara. Innamorati della sera, innamorati della luna, conoscitori della notte senza averne paura. Innamorati di quel fiore che non vuole mai dire momento di mettersi a dormire, lasciando scivolare il libro che ci ha aiutati a capire che basta un filo di vento venirci a guidare, perché siamo naviganti senza navigare mai. E questo era il bel brano di Ivano Fossati, Naviganti, presa dalla colonna sonora del Toro. E qualcosa su Ivano Fossati: è genovese, classe 1951, è un polistrumentista, infatti lui suona pianoforte, chitarra, flauto, percussioni e poi ovviamente cantante. Inizia col rock progressivo e poi però si discosta da questo genere, e famoso ovviamente il suo brano La mia banda suona il rock, che però ha ripudiato, nonostante ovviamente è andata in classifica, è famosissima. E colonne sonore ne ha fatte parecchie, mi dicevi, Ottavio. Sì, sì, ha fatto, beh, la colonna sonora del Toro è proprio, l'ha curata proprio in tutto e per tutto, e poi invece ha fatto delle musiche per il cinema, per il film Beati Ricchi di Salvatore Samperi del 94, Il Toro, L'estate di Davide, La lingua del santo, A cavallo della tigre e Caos calmo. E, è stato un cantautore molto prolifico, ha prodotto più di 20 album e poi ha deciso di ritirarsi nel 2011. Sì. Invece di questo film, che è un film del 94, appunto, di Carlo Mazzacurati, che ci ha lasciato il 22 gennaio del 2014, volevo ricordare, a parte il film è molto molto bello, con Diego Abatantuono eccetera, che è scritto da due grandissimi sceneggiatori. Parliamo sempre degli attori, dei registi, e tralasciamo sempre invece poi quelli che sono, Furio Scarpelli diceva che un film non esiste se non è scritto, e proprio qualche giorno fa è uscito un articolo su La Repubblica che parlava proprio di come vedeva Furio Scarpelli, famoso sceneggiatore, nostro sceneggiatore, insomma, della commedia, parlava di come vedeva proprio le sceneggiature, ed è bellissimo. C'era questa piccola descrizione di un personaggio che stava sotto un diluvio, una più grande pioggia. Beh, è veramente potente come si può scrivere un film, e attraverso la scrittura come poi si riesce a creare la scena, no? È fondamentale. E questo film è stato scritto da due grandissimi sceneggiatori, Sandro Petraglia e Stefano Rulli, che hanno lavorato tantissimo insieme. Adesso non vi sto a dire tanto perché insomma abbiamo poco tempo e magari ci saranno altre occasioni per parlarne, però vi dico soltanto che Sandro Petraglia ha scritto le sceneggiature per Marco Bellocchio, Marco Risi, Vilma Labate, Paolo Vittorio Taviani, Marco Tullio Giordani, Riccardo Milani, Ferzan Özpetek, Gabriele Salvatore e per ultimo addirittura Stefano Solli, ma per Suburra. Non vi elenco tutti i film che ha scritto, ma insomma sono una lista interminabile, e sono dei personaggi importanti, perché poi insomma hanno una storia intellettuale e di scrittura veramente potentissima. Vi dico soltanto che insomma per anni sia Petraglia che Stefano Rulli hanno lavorato come critici cinematografici sulla rivista Cinema 60, poi hanno scritto su Ombre Rosse, la rivista del cinematografo, Sipario. Insomma, tutte persone molto speciali che, oltre a essere dei grandi sceneggiatori, hanno proprio una storia di scrittori da raccontare. Sarebbe bello proprio riuscirci a parlare un giorno di questi, Federico, invitarli anche per parlare un po' delle loro scelte musicali all'interno del cinema, sarebbe bellissimo. Io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore, in un attimo di libertà, a quella conosciuta appena, non c'era tempo e valeva la pena di perderci un secolo in più. A quella quasi da immaginare, tanto di fretta l'hai vista passare, dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di felicità. Alla compagna di viaggio i suoi occhi, il più bel paesaggio, fan sembrare più corto il cammino. E magari sei l'unico a capirla e la fai scendere senza seguirla, senza averle sfiorato la mano. A quelle che sono già prese e che vivendo delle ore deluse con un uomo ormai troppo cambiato ti hanno lasciato, inutile pazzia, vedere il fondo della malinconia di un avvenire disperato. Immagini, care, per qualche istante sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino. Ma se la vita smette di aiutarti, è più difficile dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti. Allora nei momenti di solitudine, quando il rimpianto diventa abitudine, una maniera di viversi insieme, si piangono le labbra assenti di tutte le belle passanti che non siamo riusciti a trattenere. E questo è un brano dalla colonna sonora dell'Amore ritrovato, ovviamente era Fabrizio De André e con il brano Le passanti. E oltre a quello che ha detto Domenico, cioè che è preso da una canzone di Georges Brassens, e volevo aggiungere che Georges Brassens a sua volta si è ispirato a una poesia di Antoine Paul, il quale si è chiaramente si è ispirato alla poesia di Baudelaire che si chiama proprio Le passanti, e quindi che dire, è tutto un po' riciclato, un rimando. Abbassando, abbassando, abbassando gli occhi, non mi hai detto più la verità. Ci siamo persi senza dirlo, prima del tempo nero che è venuto senza pietà, pieno di sospetti, fragili e netti, abbassando, abbassando, abbassando le mani sulle orecchie della mia anima. Mi son detto non è vero, è uno sguardo sincero, sincero e puro come il mio pensiero perso nel parlare serio di passione. Passione mal padrone già abile mi rende molto mobile sulle sponde del turchino spazio amabile. E volo, volo, volo con i piedi nell'acqua, è un caffè nella pancia per mangiare con te. Abbassando, abbassando, abbassando valigia, dentro al porto mi sopporto un po', la mia faccia è stanco viaggio, no, non mi dà coraggio. coraggio di credere, credere, credere, senza domande, le parole che tu non mi puoi dire, abbassando, abbassando, abbassando la testa, mi conforto e non ci penso più. Mi son detto lascia stare, è una storia popolare, e vale, vale, vale una canzone nel parlare ludico di passione, passione mal padrone già. Sulle sponde del Turchino spazio amabile, e volo, volo, volo con i piedi nell'acqua, e un caffè nella pancia per mangiare con te. Parlare ludico di passione, passione mal padrone già. Questi erano gli Avion Travel, il brano Abbassando dalla colonna sonora di Volevamo essere gli U2. Riguardo gli Avion Travel, hanno trascorso molti anni a suonare nei club, nei teatri, prima di sfondare. Poi ci sono riusciti e hanno addirittura vinto Sanremo. Sono passati dalla New Wave a, come questo brano, alla proprio melodia classica italiana. Si può dire di loro che sono, come dicevi Ottavia, sono artigiani, registi artigiani. Loro si potrebbero considerare musicisti artigiani, infatti i loro 14 album. Curano tantissimo la musica, le parole, sono proprio attentissimi. Sì, il gruppo è stato fondato anche da Peppe Servillo, che è il fratello di Tony Servillo, e ha recitato anche lui in vari film. Sì, poi hanno realizzato anche la colonna sonora del film di Renato De Maria, Hotel Paura, nel 99. Hanno portato in scena un'opera, l'Operina, La guerra vista dalla luna, al Centro Sociale Leon Cavallo qualche tempo fa. Beh, insomma, sì, degli artigiani, delle persone sensibili, anche se poi questa loro andata a Sanremo non è che mi è piaciuta tanto. Sempre la solita. E beh, il film Volevamo essere gli U2, la regia Andrea Barzini, anche lui ha fatto delle scelte fiche, secondo me, e poi dopo si è perso un po' nella storia, nella passione di regista. Insomma, è iniziato con la trasposizione cinematografica di Italia Germania 4-3 e poi questo film, che ha una colonna sonora proprio scelta e proprio in modo oculato, come anche poi gli attori, tra i quali ci sono anche, c'è anche la nostra Eleonora Danco, che salutiamo se all'ascolto. E beh, insomma, un film carino. Enrico Roverso, bravo, film del 92, bello. questo è il gruppo, abbiamo ascoltato il gruppo bolognese Massimo Volume con il brano Ti sto cercando, dalla colonna sonora di Almost Blue. Sì, due parole soltanto per salutare Alex Infascelli, che è il regista, autore di questo film del 2000, appunto diretto da lui, era il suo esordio alla regia. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Carlo Lucarelli. Alex Infascelli, ricordiamo che ha appena vinto un David di Donatello per il bellissimo documentario che ha fatto su Stanley Kubrick, che io ho avuto la fortuna di vedere durante la festa del cinema di Roma. È veramente bellissimo, lo saluto con grande affetto, perché è uno degli artigiani di cui parlavamo prima, perché è veramente un artigiano, un grande amante di cinema, un grandissimo conoscitore di musica. Ha curato la regia di tantissimi video musicali, dai Nirvana, i Red Hot Chili Peppers, insomma veramente grandissimo. Adesso mi perdo un po' ritrovandoli tutti quanti, mi ero fatta una bella lista, ma insomma in queste 200 pagine che ho scritto. Beh, due nomi che hai piazzato sono pesantissimi. Sì, sono belli forti, ma ce n'erano altri. Poi Carboni, ha fatto un sacco di altri video musicali, i Cocteau Twins, Daniele Silvestri, l'Alma Megretta, Tiro Mancino. Beh, insomma, un bravo regista, giovane, speriamo di averlo, di invitarlo. Alex, se sei all'ascolto, ci dovresti pensare tu a questo. Sì, vieni a trovarci, ti chiameremo, così magari facciamo una puntata con le tue preferenze cinematografiche e musicali, sarebbe bello. Siamo tornati in diretta con Domenico, ci sei, caro? Ci sono. Io ti farei parlare anche un po' della tua esperienza a Todos, una delle trasmissioni a mio avviso più prestigiose musicalmente parlando di questa radio, il lunedì sera alle 23. Dici un po' qualcosa, Domenico. Questa è una trasmissione che va in onda da molti anni, inizialmente era condotta da me insieme a Thomas, per quello si chiama poi Todos, sì, perché sono i nostri due nomi, le iniziali dei nomi messi insieme. E un occhio di riguardo alla musica italiana, e per il resto si spazia un po' su tutti quanti i generi, senza nessun tipo di limite, e poi si sposta nella notte fino all'1:30, va in onda in diretta, quindi c'è molto molto spazio, ecco, si va a mano libera. Senti, invece passando alle sonorità scelte per questa puntata, sono tutte molto calde. Sì, molto calde, e a volte chi interpreta i brani, il gruppo, il cantante, capita spesso che compaia anche nel disco, nel film. E quindi abbia questa doppia veste a volte di attore e anche di musicista. Parlavo prima di Tutti giù per terra, ma poi ci sono anche altre tracce che magari sentiremo che hanno presenza del musicista o del gruppo anche all'interno della pellicola, come presenza proprio scenica e personale. Senti, la seconda parte, ci mettiamo i CSI che abbiamo non siamo riusciti a comprendere nella prima mezz'ora, e poi sarà la volta dei Marlene Kunz con Nuotando nell'aria. Da Jack Frusciante è uscito dal gruppo, film al quale ho dedicato la copertina della puntata di oggi con una foto di scena abbastanza famosa, quella proprio della locandina del film. E poi Motel Connection con Nuvole rapide da Santa Maradona, perché Ottavia ci teneva a parlare proprio del film. E chiuderemo con Daniele Sepe dalla Tarantella del Gargano, dall'Amore molesto. Ecco, questi sono i quattro spezzoni musicali che ci accompagneranno nella seconda mezz'ora. Sì, Jack Frusciante, la canzone Nuotando nell'aria di Marlene Kunz, sicuramente un brano quasi adolescenziale o post-adolescenziale, che ben si coniuga con quel film e la storia che va a raccontare. Poi canzone molto famosa di Marlene Kunz, canzone che è contenuta nel loro album d'esordio, Catartica, dunque un pezzo importante, si sposa bene con il film. Poi sicuramente merita di essere ricordata Model Connection, la colonna sonora di Santa Maradona, un film ambientato a Torino. In quel periodo molti film si ambientavano a Torino, andava per la maggiore come posto per girare. Sì, anche grazie a una film commission che funzionava. Esatto. Model Connection, dunque, richiamo ai Subsonica, dunque Torino anche per quanto riguarda il gruppo musicale. È un film nel quale io ricordo con grande simpatia il personaggio interpretato da Picchio, che poi è insomma amico di Radio Onda Rossa, sì, frequentatore di Radio Onda Rossa. Senti, e poi per quanto riguarda invece Daniele Sepe, L'amore molesto, altro film molto molto bello di Martone, un film tratto da un romanzo della misteriosa scrittrice Elena Ferrante, e insomma su Daniele Sepe c'è poco da aggiungere, un film ambientato a Napoli, una Napoli particolare, abbastanza oscura, e questa tarantella che non è propriamente napoletana, perché appunto è garganica come ispirazione, e però accompagna la ricerca di questa donna con questo vestito rosso in questa Napoli, la ricerca della madre. Per quanto mi riguarda, L'amore molesto è uno dei migliori film di Martone, uno che poi me lo ha fatto amare immediatamente. Tornando, Domenico, alla trasmissione, dicevi una certa predilezione per la musica italiana, senza però più in generale troppi limiti, si spazia molto. Però ci sono delle cose, dei mondi musicali che sicuramente apprezzi di più, no? Sì. Dipende poi dai periodi, ecco. Andando avanti nel corso degli anni, perché sì, poi questa trasmissione mi ha accompagnato anche nella crescita, nel trascorrere degli anni, ho notato adesso una virata verso la musica elettronica, verso un'elettronica d'ascolto, verso un jazz più sperimentale, quindi un cambiamento mio personale che inevitabilmente traspare nelle scelte musicali che vengono fatte nella notte del lunedì su Onda Rossa con Todos. Senti, e non senza grossi limiti, anche per quanto riguarda gruppi più conosciuti o meno conosciuti, etichette note e meno note. Sì, ha molte anche autoproduzioni, sì, molte cose che arrivano in radio e poi le ascolto e vedo se mandarle o meno. Quello sicuramente, anzi, penso che sia una delle missioni di Todos, far sentire brani musicali o musiche che è più difficile ascoltare altrove, sia perché sono meno conosciute e sia perché a volte gli spazi radiofonici pretendono una compressione dei tempi, quindi mandare, che ne so, un brano che dura 12 minuti diventa difficile. Io, avendo molto tempo a disposizione, invece mi diverto anche a stimolare un po', a sfidare le ascoltatrici e gli ascoltatori, mettendo cose anche molto lunghe, anche un po' meno radiofoniche, che però secondo me si inseriscono bene nell'ambiente notturno di Todos. Sì, e soprattutto a far arrabbiare tutti gli ascoltatori che telefonano per fare delle richieste che tu assolutamente dici all'inizio della trasmissione che non manderai. E poi mi piace molto la caratteristica di Todos, che quando viene fatto un trillino invece a rimetterla da capo, che è proprio, cioè, la cosa, cioè, l'ordine proprio prestabilito di Radio Onda Rossa, si mette un'altra traccia, sempre dello stesso gruppo. Mi piace un sacco. Bellissimo. Guarda, Domenico, sei proprio figo. Allora, ricordiamolo, Todos, lunedì sera alle 23 su queste frequenze, e con te ci sentiremo una delle prossime puntate, Domenico. Sicuramente. Un abbraccio. Persona, io ti dico soltanto Sì, di persona anche meglio. Io ti dico soltanto au revoir e tu sai perché. A bientôt. Ciao Domenico. Buon ascolto. Voglio salutare Marco Pannella che ci ha lasciato, ho avuto adesso la notizia, e beh, insomma, un dolore, un personaggio importante, a prescindere da tutto, ha fatto grandi scelte politiche che hanno riguardato tutti quanti noi e che hanno fatto la differenza all'interno del panorama politico di questo ammaccato paese. Ti dedichiamo questo pezzo. sapere come non farsi fregare, come non poter avere niente da imparare, come non voler sentire quello che hai da dire, come non trovare mai la forza da fiorare. Questa era dalla colonna sonora di Tutti giù per terra, brano omonimo dei, ovviamente, CSI. Che dire dei CSI, a parte che Ferretti ci sta un po' antipatico ormai, vabbè. Però l'abbiamo tanto amato. Eh sì, non possiamo essere retroattivi. Beh, sì, comunque una figura particolare anche in queste sue scelte ormai religiose, chiamiamole così, no? però insomma è nei nostri cuori. Comunque i CSI è stato un grande gruppo e volevo qui leggevo dalle notizie che mi porta sempre Ottavia che si sono aggiunti nel gruppo il bassista e il tastierista dell'Itfiba, nonché Ginevra Di Marco, prima come corista e poi... Eh sì, quando si è costituito i CSI c'erano, sono arrivati anche loro. Invece io ci tenevo in particolar modo, Fede, a questo film perché è stato girato, secondo me, da uno dei più grandi registi italiani. Io, per me, è così. Sto parlando di Davide Ferrario, classe 1956, nato a Casalmaggiore. Che più volte abbiamo avuto ospite a Visionari. Sì, eh? Beh, sì. Sì, beh, certo. Regista, sceneggiatore, proprio perché appunto regista, sceneggiatore, produttore, critico cinematografico, scrittore, ha prodotto diversi documentari, quindi immagino che anche in quel contesto forse è venuto a Visionari. Volevo dire due cose proprio sulla sua biografia. Esordisce nell'89 con un lungometraggio, La fine della notte, giudicato miglior film indipendente della stagione, e poi fa un altro documentario, una commedia, Anime fiammeggianti, nel 94, un documentario bellissimo, Lontano da Roma, del 92, incentrato sulla struttura della Lega Lombarda, e fa proprio una... Proprio adesso sarebbe così attuale, lui ci è arrivato molto prima che succedesse tutto quanto, bellissimo, dovete vederlo. Nel 95 fa un progetto con cura il progetto Materiale Resistente, ripercorre le tappe del viaggio a Reggio Emilia a Mongolia del gruppo musicale CSI, a proposito. Negli anni 90 di nuovo alla regia per la commedia Figli di Annibale, e poi Guardami, un film sulla vita di Moana Pozzi, documentari Le strade di Genova, La rabbia. Beh, insomma, veramente un regista completo e molto vicino. Io secondo me è proprio un erede della commedia all'italiana, perché lui racconta l'Italia con le sue problematiche e gli italiani con la visione ironica e invece profonda e di riflessione, proprio di un grande regista come ce n'erano qualche anno fa, non ci sono più. Pelle è la tua, proprio quella che mi manca in certi momenti, in questo momento la tua pelle, ciò che sento muta nell'aria, odori dell'amore. Che manca, perché si sente male, molto male, amandoti ancora. è forse uno dei brani più belli dei Marlene Kunz, Nuotando nell'aria, dal film Jack Frusciante uscito dal gruppo, che stavamo vedendo che c'ha questo film una bella colonna sonora, un sacco di bei brani. Non ve le anticipiamo però, perché infatti magari ve la proporremo come puntata. Film del 96, regia Enza Negroni, l'unica donna della giornata, sempre troppo poche. Senti, siamo ai saluti, perché anche io sono in minoranza qua. Siamo ai saluti, con ci dia appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. Le coordinate per sostenere la radio, vi ricordo che ha bisogno del vostro contributo per continuare a trasmettere da queste frequenze. Fra poco ci sarà anche la sua festa. Compiamo 40 anni, quindi no, insomma 39. 39. E quindi, insomma, beh, una bella età, eh? Così, senza nessun apporto da politici, una radio indipendente, senza pubblicità, che è sostenuta soltanto dagli ascoltatori, è un bel traguardo, quindi continuate a sostenerla attraverso il conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Vosci 56001851. Potete anche sottoscrivere attraverso il sito della radio www.ondarossa.info, sostiene, cliccando il pulsante sostieni. L'indirizzo di posta elettronica nostro è tracce di cinema@ondarossa.info. E chiudiamo con Daniele Sepe. Esatto, Daniele Sepe, Tarantella del Gargano, dal film L'amore molesto, è l'ultimo brano di oggi, scelto da della scelta di Domenico, insomma.